Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come sentite anche dal rumore di sottofondo, siamo in diretta dal salone, dalla Fiera di Milano, Ropero, dove oggi si è aperta la 31esima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, e di questo parleremo a lungo, anche perché questa mattina nel convegno inaugurale hanno partecipato il ministro Brambilla, il governatore Formigoni, il sindaco di Milano Moratti, e altri esponenti, il presidente della provincia di Milano Podestà, il presidente di Confcommercio Sangalli. Insomma, il tema era chiaramente l'Expo, che è il grande appuntamento per il turismo e non solo lombardo e italiano, oserei dire, ma anche la tassa di soggiorno e quindi l'introduzione dentro il decreto sul federalismo fiscale per i comuni della possibilità per i comuni di applicare una tassa di soggiorno, una tassa alberghiera, tassa di scopo. Tra l'altro la Moratti ha annunciato, su sollecitazione anche del sottoscritto, che non vi sarà la tassa di soggiorno nel comune di Milano. Un po' più piccata invece su un'altra domanda che le ho posto, ma è che è di attualità in questi giorni, ossia se è vero che vi sia un problema di risorse sull'Expo in questo momento. Dei 100 milioni complessivi per ora sono arrivati solo 23 milioni della regione, ma sentiremo anche, insomma, come il sindaco di Milano si è un po' così piccata per questa domanda, ma noi tiriamo avanti. Ancora al ministro Brambilla, prima che me lo chiediate con gli SMS, abbiamo chiesto anche perché e come si può tutelare un patrimonio nazionale dal punto di vista architettonico e artistico, quando poi nel decreto mille proroghe è stata introdotta una clausola che permette di spostare sine die la demolizione delle abitazioni nel territorio campano. Allora dico una cosa e poi andiamo avanti. È chiaro che su 65.000 abitazioni abusive, il cui abbattimento è già stato deciso a livello di tribunale, cioè già passato in giudicato, non si possono immaginare degli abbattimenti, cioè, tutti in una volta. Sono 65.000 famiglie, sono più di 100.000 persone coinvolte. Sì, la critica nostra era rivolta soprattutto, o almeno a quelle costruite in territori sottoposti a vincolo archeologico nell'area appunto dei Campi Flegrei, ma non solo. Questo era il nostro dubbio. Comunque la Brambilla ci ha risposto. Più avanti parleremo invece, vi faremo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato ieri con Samuel Sawiris, e quindi l'erede, uno dei tre eredi della più importante e ricca famiglia egiziana, considerata la più ricca famiglia a livello africano, sulla situazione in Egitto e non solo. Avremo anche alcune dichiarazioni di Paolo Scaroni, numero uno dell'ENI, per quello che riguarda gli investimenti dell'ENI in Libia, dopo le notizie di ieri. Tra l'altro Scaroni, vi anticipo, ha detto non ci sono tensioni forti, l'ENI continuerà a investire in Libia. Il nostro GR però vi ha ricordato come, secondo Al Jazeera, oggi siano già morte 6 persone in scontri a Bengasi. E ancora avremo una dichiarazione di Tarak Ben Ammar, che è l'imprenditore tunisino più importante che c'è, molto noto in Italia per la sua partecipazione anche in Mediobanca, sulla situazione invece degli sbarchi a Lampedusa e quindi di quello che è la diga che non sembra tenere sulle coste tunisine. Anche Franco Frattini ha parlato di questo. Detto ciò, come va la borsa? Dopo aver ricordato che il numero per i vostri sms è 349-238-6666, la borsa perde uno 0,20% a Milano. Per quello che riguarda invece i titoli, segnalo Fondiaria SAI più 2,85%, Steam Microelectronics più 1,94%, Saipem più 1,70%. Ancora Bulgari più 1,20, Terna più 1%, Snam più 0,60, male Buzzunice, ma aveva guadagnato tantissimo in queste ultime sedute, meno 3,5, Ansaldo STS meno 1,80, Tods meno 1,20, Popolare di Milano meno 1,1, Pirelli meno 1%, Mediaset meno 0,80, come Eni e Mediolanum lo 0,70 lo perdono Prismian e Intesa San Paolo. Le altre borse europee sono tutte sulla scia anche di Milano, e quindi tra l'invariato e leggermente negativo. Poi vedremo l'aggiornamento completo durante il collegamento di borsa. Adesso le altre notizie in breve. Restiamo sulle materie prime, l'oro è in rialzo, 1380 dollari l'once, ma chi ha fatto il vero e proprio record ancora una volta è il cotone, di nuovo è un record storico, già lo raccontammo che il cotone aveva raggiunto il livello più alto di quotazione dai tempi della guerra di secessione in America, ebbene adesso è a 2 dollari a libra. Una libra è quasi mezzo chilo, sono 453 grammi. Pensate che da gennaio il cotone ha fatto più 40%. Vedo già i messaggi. Gliel'abbiamo fatta la domanda alla Brambilla sulla sospensione delle demolizioni di case abusive anche nelle zone archeologiche del Napoletano della Campania. Adesso sentiamo la risposta. Dicevo, il petrolio invece apre in calo. New York 84,87 dollari al barile, e poi sempre sul fronte dell'economia internazionale, ma questa volta è la gara, la corsa, chi sarà il prossimo presidente della Banca Centrale Europea, dopo come si chiama in gergo l'endorsement, quindi l'appoggio del Financial Times, anche l'Economist appoggia la scelta di Mario Draghi, la miglior scelta possibile e il miglior candidato per succedere a Jean-Claude Trichet alla guida della Banca Centrale Europea, e tutti i paesi europei, scrive l'Economist, a cominciare dalla Germania, dovrebbero rendersene conto abbandonando ogni pregiudizio e compiendo così, scrive l'Economist, per una volta la scelta giusta per rendere migliore una situazione difficile. Ancora i dati dell'OCSE sul PIL del quarto trimestre, ma ormai è roba vecchia, già abbiamo un dato conclusivo sul 2010, l'Italia è quella che cresce meno nei paesi del G7, più 0,1% in media, nello 0,4% di rialzo, ma la buona notizia, la festeggeremo la buona notizia, con il dato che hanno diffuso a livello italiano oggi le Camere di Commercio. Il saldo infatti è tornato positivo, ossia tra imprese nate e imprese morte, torna ai livelli pre-crisi, 7.500 aziende in più rispetto al 2010, 1.200 nuove nate al giorno, è il risultato migliore dal 2006, come ha sottolineato il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello al microfono del collega d'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Nicola Filippone. Questo 2010 è un'inversione di tendenza estremamente palese, circa 1200 imprese sono nate al giorno con un saldo positivo di 72.000 imprese alla fine dell'anno, la voglia di fare impresa ritorna, è forte all'interno della nostra comunità, i giovani in modo particolare scelgono l'impresa quale strumento della propria realizzazione, della propria vita, del proprio sogno, della propria voglia di intraprendere. L'impresa nasce per scelta, non per necessità, è un dato estremamente positivo che ci mette non di buon umore, perché non siamo di buon umore in questo momento, perché la situazione generale certamente non è facile, ma dà il senso di come questo paese sta crescendo in questa direzione, come l'innovazione che sappiamo mettere in campo, le nostre idee, i nostri sogni nel cassetto possono trasformare nell'impresa lo strumento veramente anche del futuro della vita di un nuovo imprenditore. I dati più importanti li abbiamo nel centro-sud del nostro paese, probabilmente quelle aree che sono sempre più stantie, più residuali dal punto di vista della crescita, e questo la dice tutta come la piccola impresa, la piccola media impresa, ma non solo, e c'è poi un dato estremamente significativo. Nascono all'interno di questo panorama complessivo oltre il 70% sono imprese che nascono sotto l'aspetto societario, quindi dal senso di una impresa che deve nasce non soltanto per la necessità di trovare magari nell'impresa l'occupazione, il lavoro, ma proprio una sfida, proprio un progetto sul quale costruire anche il futuro di questa nostra imprenditoria italiana. E non solo, le piccole imprese danno anche spazio all'emigrazione, di trovare numeri importanti sotto questo profilo, è un emigrato che fa impresa, è un emigrato che riesce meglio ad integrarsi anche nel paese, perché deve rispettare le regole, ha bisogno in qualche modo di potersi meglio integrare. Quindi complessivamente un dato molto positivo, lo riteniamo, in controtendenza di quelli che sono stati gli ultimi anni, quindi più imprese che nascono, meno imprese che chiudono, è un saldo che ci fa ben sperare nonostante tutto il sistema economico italiano. Ah, Vabbè, ogni tanto il gallo ci vuole, insomma, è obiettivamente un bel dato che delle 1200 imprese nate, nuove imprese nate al giorno, portino il saldo ai livelli pre-crisi. Questo fa contenti e dovrebbe far contenti tutti. Ancora due notizie, e anche questa devo dire che è positiva, perché nonostante la crisi gli ingegneri, lo dico quindi anche agli studenti in ascolto che spesso ci chiedono ma cosa studiare, insomma, se avete voglia sentite questa, gli ingegneri resistono anche alla crisi, hanno chiuso il 2010 con una sostanziale condizione di piena occupazione e tra l'altro, visto che ieri ci siamo occupati di quote rosa, è aumentata anche la presenza femminile. Ogni 4 nuovi ingegneri che si laureano in Italia, una è donna, così come prosegue anche la crescita delle ragazze che scelgono di iscriversi a questa facoltà, 23,8%. E da questo punto di vista, insomma, è sicuramente una delle categorie professionali che meno ha sentito la crisi di questi due anni. Adesso alcune notizie che invece così allegre non sono, mi riferisco al riordino degli incentivi per le piccole e medie imprese. Dopo un anno e mezzo la delega al governo è scaduta martedì scorso ed è fallito il tentativo di un allungamento dei termini con il mille proroghe. Bisognerebbe avere una nuova delega al governo da parte del Parlamento e quindi con un allungamento dei tempi. Poi ci arriva la notizia di una corsa delle tariffe locali, di alcuni tributi locali. La tassa per i rifiuti è cresciuta in media tra il 2004 e il 2009, quindi non c'è un giudizio politico, c'era un governo Berlusconi, un governo Prodi, un governo Berlusconi, del 29%, oltre 3 volte l'inflazione. Questa la tassa sui rifiuti, ricordiamoci quando poi parliamo dell'attività dei comuni e delle loro risorse, i servizi idrici più 5% all'anno e praticamente il peso di altri adempimenti di tariffe locali è salito del 43%, già ha portato, scusatemi, la pressione fiscale complessiva al 43,5%. Volete sapere del Pio Albergo Trivulzio? Va bene, oggi si dovrebbe essere già riunito il CDA, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, per decidere la linea da seguire sulla vicenda degli affitti concessi a prezzi di favore, privilegiando i cittadini con reddito alto. Ora, il Pio Albergo Trivulzio, sì, quello famoso di Mario Chiesa, dell'inizio di Tangentopoli, dovrebbe dare le case, insomma, ai meno abbienti. In realtà le dà, si è scoperto che le dà a cittadini con reddito alto. La spiegazione del numero uno è stata: i cittadini con reddito alto sono meno a rischio di non poter pagare l'affitto, capito? Allora non ti chiamare Pio Albergo Trivulzio, chiamati Ricco Albergo Trivulzio, insomma. Vabbè. E iniziano a spuntare i nomi dei primi parenti o amici di potenti, il presidente di MetroWeb ed ex assessore Guido Manca, meno di 500 euro al mese di spese comprese per 70 metri quadri nella centralissima via Santa Marta a Milano, 500 euro al mese è buono come affitto, il cofondatore del PDL milanese Luciano Buonocore, 130 metri quadri in via Moscova a 470 euro al mese. E poi addirittura un nipote di Cossiga, ne vedremo delle belle perché adesso sono stati chiesti, il garante della privacy ha dato nulla osta alla pubblicazione dei nomi degli inquilini, i vertici del Pio Albergo Trivulzio avevano detto che c'erano ragioni di privacy, comunque le vedremo quali saranno. No, devo dire che è buono come prezzo, perché 130 metri in via Moscova, cioè pieno centro di Milano, a 470 euro al mese, vedo che i tecnici di regia qua sorridono, 70 metri quadri in via Santa Marta a 500 euro al mese, non male anche quella. Va bene, si fa per dire. Andiamo con il primo tema, ossia la Borsa Internazionale del Turismo, partendo però subito dalla domanda che, visto che continuate a chiedermelo, l'abbiamo fatta, ve l'avevo promesso già giorni fa, abbiamo chiesto al ministro Michele Brambilla: com'è possibile che da un lato si voglia rilanciare questo paese anche per il suo giacimento e patrimonio artistico, dall'altro invece nel decreto mille proroghe passato ieri alla Camera è prevista la sospensione dell'abbattimento delle case abusive in Campania, il 25% del totale, ma soprattutto delle case abusive nelle zone archeologiche, perché nessuno immagina di cacciare 65.000 famiglie in un colpo solo. La risposta del ministro Brambilla. Questo emendamento, che ricordiamo è di origine parlamentare, tiene conto ovviamente del fatto che vi sono 65.000 famiglie che abitano all'interno di queste case, non possiamo in alcun modo ovviamente danneggiare. Detto questo, il problema e il punto è un altro: come è stato possibile che siano nate 65.000 abitazioni abusive in queste aree? Le amministrazioni locali in questi anni come hanno potuto permetterlo? Questa è la vera questione sulla quale io credo dovremmo tutti prendere una forte posizione. È vero, concordo anch'io con il ministro Brambilla, va data la responsabilità in primo luogo agli amministratori locali, alla sovrintendenza, a tutti gli organismi competenti sul territorio per aver fatto nascere 65.000 abitazioni abusive in Campania, di cui una parte nelle aree archeologiche. Detto questo, non mi sembra che il decreto che sospende l'abbattimento già deciso dal Tribunale aiuti. Si poteva iniziare con piccoli scaglioni, piccoli lotti, partire dalle cose più eclatanti se vogliamo far venire i turisti. Però Battisti, inteso come Lucio, ci aiuta a introdurre il primo, e non come Cesare, visto che mi guardavate strano dalla regia, ci introduce il primo tema: 31ª edizione della BIT, 5.000 espositori, nuovi ingressi come Indonesia, Oman e Kazakistan, ritorni come il Gambia e le Seychelles e tante conferme. Sono 130 i paesi presenti, quasi tutte le regioni d'Italia, tour operator, agenzie di viaggi, catene alberghiere, compagnie aeree, marittime, ferroviarie. Devo però subito sfatare un mito che sta circolando, non so perché, in rete, che i conduttori di Radio 24, già l'avete chiesto a Deborah Rosciani questa mattina, per partecipare alla BIT ricevono dei pacchetti viaggio maggio. Vi dico solo una cosa, magari. Rallentando per poi accelerare. Video maggio, non c'è neanche il taxi fino alla fiera. Allora, la scheda che abbiamo preparato, e poi ne parliamo con chi studia da sempre i dati del settore turistico che per l'Italia significa tanto. Pensate che il turismo pesa per il 9,5% del PIL in Italia, più che in Germania, in Gran Bretagna, meno che in Francia e in Spagna. Come va il turismo, come è andato nel 2010 e le attese sul 2011? La scheda. Turismo italiano ancora in affanno, ma con segnali di speranza per il futuro. Il 2010, infatti, non è stato l'anno dell'uscita dalla crisi, come evidenzia l'Istat. Rispetto al 2009, hanno sofferto tutte le voci, a cominciare dai pernottamenti, scesi del 7,8%. Ma a preoccupare di più è il dato sulla componente principale del nostro turismo, ossia quella delle partenze. Coloro, infatti, che si sono potuti permettere di mollare tutto e partire in vacanza, sono scesi del 12,4% sul 2009. Forte anche la contrazione per le vacanze brevi, vicina al 20%, e per i viaggi nel nostro paese, ridotti di quasi il 14%. Stabili invece gli spostamenti all'estero, mentre calano quelli per lavoro. In salita poi le vacanze prenotate sul web, mentre crolla del 25% il fai da te. Il 2011 potrebbe però essere, per il convalescente turismo italiano, l'anno della guarigione. Secondo i dati ISNART Unioncamere, infatti, cresce del 14% la quota di connazionali che andrà certamente in vacanza entro aprile, preferendo in prevalenza mete italiane. Importante sarà anche l'afflusso di stranieri, che viene previsto in decisa ripresa. Le previsioni dell'ENIT per il 2011 indicano aumenti delle prenotazioni di oltre il 20%, non solo da paesi tradizionali come Stati Uniti, Canada e Giappone, ma anche da economie emergenti come Cina e India. Quindi, come avete sentito, ed era immaginabile, una certa contrazione c'è stata anche nel 2010, i segnali però arrivano, siamo partiti col gallo e non vogliamo proprio, nel nostro, diciamo così, ambiente un po' volatile, arrivare subito al gufo. Ci sono segnali positivi anche per il 2011 e ne parliamo con i nostri due ospiti qui negli studi di Radio 24 alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Volete sapere il padiglione 3B49, se volete venirci a trovare riceverete lauti premi e cotillon, magari anche qui. Allora, dottor Renzo Iorio, vicepresidente vicario di Federturismo, buonasera. Buonasera. E grazie anche al direttore operativo dell'ISNAT, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, dottoressa Flavia Coccia, buonasera anche a lei. Buonasera. Il volume del microfono, dottoressa Coccia. Allora, dottoressa, partiamo dalla ricerca che voi avete presentato in collaborazione con Unioncamere, in occasione, diciamo, dei 150 anni dell'unità del paese, viaggio in Italia, 150 anni di turismo, in maniera molto chiara e sintetica, anche se vuole contestando la nostra scheda. Le prospettive sul 2011 sono un po' migliori? E se sì, da dove arrivano? Perché noi ci siamo occupati degli italiani che vanno in vacanza, ma chiaramente una fetta importante la coprono anche gli stranieri. Prego. Bisogna prima di tutto dire una cosa, i dati che ha presentato l'ISTA sui viaggi e vacanze italiani riguardano principalmente dei cali sui viaggi per visite a parenti e amici. Se andiamo a vedere anche i dati dell'Istat, gli italiani sono andati poi nelle imprese ricettive, quelle, diciamo, dagli alberghi all'ex alberghiero, sono in crescita. Quindi in realtà c'è un problema, c'è un fenomeno in Italia. Da una parte c'è una fetta di popolazione che viaggia, spende, va negli alberghi e rimane molto di più in Italia rispetto all'estero, tant'è che i viaggi sono diminuiti dell'8% in assoluto all'estero. E c'è un'altra fetta di popolazione che si può permettere di meno una vacanza, che magari l'anno scorso è andata a casa dei parenti, quest'anno non c'è andata più, e questo è, diciamo, il dato di chi non si può permettere la vacanza, che purtroppo ancora sono molti, circa il 50% della popolazione che non parte, non va mai a fare un giorno di vacanza, quindi dovremmo crescere. Noi abbiamo presentato l'evoluzione di questa crescita del turismo in Italia. In realtà sembra che all'inizio, dal 1861 ai primi anni 30 e 900, c'è stata una crescita incredibile del turismo. Ma negli ultimi 20 anni noi ci siamo fermati, questo è il vero problema. Quando, nel momento in cui c'è stata la rivoluzione del turismo, di internet, del web, noi siamo rimasti al passo, siamo rimasti al palo, non siamo cresciuti, non abbiamo saputo cavalcare l'innovazione di questo nuovo sistema che è internet e il web. Allora, e questo lo dico in maniera molto chiara, non è solo o tanto per responsabilità della classe politica, a cui spesso diamo varie responsabilità. C'è stata un'incapacità del paese e quindi anche in primo luogo degli operatori, albergatori, tour operator, agenzie di viaggio, di stare al passo coi tempi, se ho ben capito il ragionamento suo, dottoressa. Io faccio notare che noi a inizio anni 70 eravamo la prima destinazione al mondo per turisti stranieri. Adesso, se non ricordo male, siamo scesi al quinto posto dopo Francia, Spagna, America e Cina. Mi va bene la Cina, mi va bene anche l'America, perché sono paesi grandi, ma stare dietro la Francia e la Spagna è solo colpa nostra, diciamo, non è un problema imputabile al turismo d'affari in Cina o alla grandezza e l'attrattività dell'America anche per altri paesi e altre economie. Cioè, voglio dire, una volta che un cinese o un americano arriva in Europa, non si capisce perché debba andare di più in Francia e in Spagna che in Italia. Su questo vorrei sentire il vicepresidente di Federturismo, però dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dalla Borsa Internazionale del Turismo qui alla Fiera di Ropero a Milano. Allora, dottoressa Coccia ci ha raccontato anche cosa è successo con chiave anche storica negli ultimi 150 anni al turismo in Italia, e soprattutto che se negli anni 70 eravamo la prima destinazione al mondo, quando il turismo è diventato internet, ma io aggiungerei anche voli low cost, tour operator, capacità, quindi non solo più il vantaggio geografico dell'Italia per esempio nei confronti dei tedeschi, noi abbiamo iniziato a perdere posizioni. Allora, vicepresidente Iorio, siccome in questo paese lo sport nazionale, uno degli sport nazionali, dà sempre la colpa a qualcun altro e poi alla politica, non mi sembra questo il caso. Per carità, il Ministero del Turismo l'abbiamo abolito, tutto quello che volete, ma qui c'è un problema, c'è un'IVA molto alta sulle strutture alberghiere. Ma qui c'è un problema di capacità del settore, quindi dei suoi associati, di capire il flusso. Dove vedi i principali punti critici che hanno fatto perdere l'Italia queste posizioni e quindi in chiave positiva che andrebbero migliorati? Ma essenzialmente quello che si dimostra è un'incapacità a crescere, perché poi di fatto tutti gli altri sono cresciuti e noi siamo rimasti grosso modo stabili. Come lei giustamente sottolineava, non stupisce che cresca la Cina per dimensioni, per attrattività, per numero di persone. Deve preoccupare che cresca la Spagna e che cresca invece la Francia, che hanno dei contesti simili ai nostri. Io credo che ci sia una sorta di sindrome per quanto riguarda il versante, diciamo, degli operatori, sindrome da eccesso di fortuna, nel senso che perché siamo sempre stati abituati ad essere la prima destinazione dove tutti volevano venire, dove tutti erano disposti anche a fare qualche sacrificio economico o di disagio per poter essere venuti, e avevano anche la tendenza a venirci una volta nella vita e poi non tornare più se non la successiva generazione. Questo porta al fatto di avere in qualche modo fatto sì che proliferasse comunque una categoria di imprenditori, una fascia di imprenditori estremamente diciamo confortevole nel proprio mestiere, che stimolava meno l'investimento sulle strutture, sul cliente, sulle risorse umane anche. E quindi la crisi che è arrivata e che ha drammaticamente tagliato prima di tutto i prezzi e poi anche in modo sostanziale i volumi, ha certamente tagliato le gambe a queste imprese e ha fatto crollare un modello di impresa che è un modello di impresa polverizzato, diffuso, autarchico, che non vuole aprirsi verso il mercato. Qui c'è tutta la responsabilità di una fascia importante di imprenditori, di operatori, c'è anche la responsabilità di non aver stimolato il governo nelle sue varie successioni, perché poi non è una questione di questo governo o dei precedenti, a far sì che si creasse una vera politica per il turismo. Quindi è sempre stato delle istanze magari piuttosto lobbistiche e protezionistiche, meno istanze di avere un vero progetto paese per il turismo, che è quello che manca, tant'è che Spagna e Francia, che hanno fatto un piano serio per il turismo, sono in situazioni completamente diverse. Dopodiché mi permetto anche di sottolineare, rispetto alle osservazioni di prima, quello che vedo con preoccupazione è, da parte del governo, prima di tutto in questo momento, andare a cercare la nicchia della buona notizia da sbandierare in avanti, nascondendo invece i problemi che ci sono, perché questo non aiuta a crescere, credo, né gli imprenditori, né le imprese, né il paese. No, meno male che lo dice lei, che vicepresidente di Federturismo, perché io oggi ho provato a dirlo con la Moratti, si è arrabbiata, adesso la sentiamo. Comunque, detto questo, va benissimo il piano complessivo, vale per tutti i settori industriali, vale anche per il turismo, ci mancherebbe. La Francia fa delle campagne di pubblicità e di comunicazione che andrebbero prese a modello perché promuove le varie regioni. Però, se io guardo anche solo gli SMS che sono arrivati in questi ultimi 10 minuti, lamentano gli italiani costi elevati, alberghi costosi, costi di servizi elevati, dal lettino per la spiaggia al resto. Quindi costi elevati, immagino, anche rispetto al servizio offerto, ma molti scrivono costi elevati e basta, perché uno può anche avere un bellissimo servizio, ma se tu costi due volte il concorrente spagnolo o in altri luoghi, forse sei fuori mercato. E poi poco investimento in quello che si chiamerebbe ricerca e sviluppo in altri settori. Molti fanno l'esempio del wifi. È innegabile che il turista che arriva adesso nel 90% dei casi voglia essere connesso alla rete internet, e in un modo o nell'altro sta connessione gliela devi dare. Altri, e chiudo con questo, dicono attenzione che anche i siti dei nostri alberghi o dei nostri luoghi sono siti poveri rispetto a quello che vediamo all'estero, per cui l'unico dato in crescita, tra l'altro, è quello sulle prenotazioni via internet nel 2010, perché sono crollate le prenotazioni fai da te, sono salite di quasi il 20% le prenotazioni via internet. Ecco un'opportunità. Devo dire che in effetti ogni tanto, quando si scende, diciamo, sotto le 4 stelle come categoria, c'è una giungla di siti, alcuni fatti bene, altri fatti obiettivamente un po' da dilettanti. Vorrei sentire i miei due ospiti su questo, dottoressa Cocce. Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dicono le persone che hanno scritto gli SMS. Effettivamente questo nostro ritardo è un ritardo consistente. Sui prezzi, però, bisogna anche dire che negli ultimi 2 anni, in particolare le imprese ricettive più grandi, quelle meno piccole, hanno fatto una politica molto aggressiva sulle tariffe e hanno diminuito moltissimo, si parla del meno 17%, del meno 15% in periodi di alta stagione. Quindi in realtà come prezzi noi siamo molto competitivi in questo momento sulla fascia alta. Il problema è che abbiamo una miriade di imprese piccolissime che vivono 2 mesi l'anno, che non hanno la capacità di reagire al mercato, perché aprono 2 mesi e quei 2 mesi devono gestirsi tutto l'anno, cioè devono fare il fatturato e gli serve per vivere. È chiaro che questa tipologia di impresa, che è la maggior parte, che sta sulla costa, parliamo che il problema è più sul balneare che sulle città d'arte, stanno andando benissimo, il mare no. Perché? Perché ci sono tante piccole imprese poco flessibili, abituate a un sistema tradizionale di fare turismo che adesso purtroppo non funziona più. Anche perché lo diciamo da anni, l'avvento del low cost ha permesso di paragonare il viaggio in Italia dal centro Europa con viaggi in altri paesi a costi identici, se non più bassi. Dottor Iorio, anche per lei, cioè, la sensibilizzazione che voi dovete fare ai vostri associati. Mi fa piacere che sia stato notato l'elemento del prezzo, nel senso che i prezzi oggi delle catene alberghiere in Italia sono a livello del 1999. C'è del virtuoso in questo, perché abbiamo cercato di rispondere e soprattutto di allineare. Molti segnalano, per esempio, la Puglia. Aprite, grazie. Molti segnalano la Puglia come esempio virtuoso in questi anni. In effetti va detto che noi stiamo ragionando del sistema complessivo, ma ci sono regioni che sono cresciute moltissimo in questi anni, la Puglia è sicuramente una di queste come esempio virtuoso. Prego. No, dicevo quindi che i prezzi sono assolutamente ormai allineati, tranne poche realtà particolari, al contesto europeo, cosa che non era al 2006-2007 ancora. Quindi questa discesa tra il 15 e il 20% obiettivamente c'è stata, ha massacrato margini eccetera, ma però fa stare nel mercato e fa tenere i volumi. Il tema è molto ancora quello della destagionalizzazione, nel senso che noi abbiamo una mentalità, parlo di sistema generale, meno quello delle catene alberghiere, ma di cambi di prezzo enormemente forzati tra l'alta stagione e la bassa stagione. Quindi questo fa sì che il cliente internazionale soprattutto abbia la percezione di prezzi molto elevati quando quelli medi sono bassi. Però è un tema davvero di destinazione, di attrattiva della destinazione e di consistenza della prestazione che uno ha. Quindi è la catena dell'esperienza che il turista ha nel venire che poi determina, perché poi magari ha la percezione del caro, ma è caro in perché una, il gelato costa caro. Battuta, io sui prezzi non sono più d'accordo con lei, perché secondo me è vero, la statistica. È vero che abbiamo degli alti scostamenti tra alta stagione e bassa stagione, però attenzione che delle volte abbiamo rispetto anche alla qualità di quello che viene offerto, ma non voglio andare nel dettaglio. Una battuta però sui tour operator, perché sì, molti fanno notare giustamente che la grande capacità di altri paesi è avere tour operator grandi che prendono e in massa, diciamo, trasferiscono i turisti di quei paesi in alcune destinazioni, e qui forse il tour operator ha difficoltà perché non trova grandi strutture alberghiere. L'altro aspetto è che spesso i tour operator hanno anche accordi o le hanno in casa con le compagnie low cost, per cui riesce a fornire un servizio integrato, lo prendi, lo trasporti e lo metti a dormire e te lo riporti a casa, e così poi si creano i grandi flussi turistici. Certamente abbiamo un problema di dimensionamento anche di vettori aerei internazionali, perché i grandi flussi dalle paesi emergenti e lontani a terra arrivano in Europa, principalmente in Germania e in Francia, prima di arrivare in Italia. C'è il tema che vale per tutto il turismo della dimensione delle aziende, vale per le aziende ricettive come per quelle del trasporto, ed è un tema dove però anche oggi, lì, non per scaricare sul governo, ma rimane ancora una seria politica di agevolare la crescita dell'azienda. Oggi la normativa continua a favorire la vera o falsa piccola impresa. Sì, questo vale per tutti i settori, non solo sì, per i vostri. Assolutamente. No, sorrido perché c'è chi ci ha ricordato quel mitico Rutelli, please visit Italy, che molte volte abbiamo fatto sentire. Non ve lo facciamo risentire adesso, sicuramente quello è, ecco, non era forse il modo più appropriato per invogliare uno straniero a venire nel nostro paese. Grazie comunque, ma al di là dell'inglese di Rutelli, in generale era più begging, era più un'elemosina che un invito. Grazie alla dottoressa Flavia Cocci, direttore operativo dell'ISNART, e al vicepresidente vicario di Federturismo Renzo Iorio. Grazie mille, grazie a tutti. A presto. Traffico, poi la borsa. ...17:48 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa, poi vi faccio sentire la risposta della Brambilla, già l'avete ascoltata, e anche così il fatto che il sindaco di Milano si sia seccata con il sottoscritto mentre moderavo l'apertura oggi della borsa internazionale del turismo per una domanda sui soldi dell'Expo. Vabbè. Ascolteremo tutto, non posso continuare a rispondere agli ascoltatori sugli esempi che vengono forniti, tantissimi, sui costi diversi tra Italia e altri paesi, soprattutto se hai dei figli e i servizi offerti. L'abbiamo detto, ogni anno c'è la bit, ogni anno ripetiamo, noi siamo duri su questo. La borsa allora, Milano chiude sostanzialmente in variata, se ben vedo, perché in esterna è un po' difficile il collegamento. Comunque, borsa Milano sostanzialmente in variata. Per quello che riguarda i titoli, quelli li vedo bene, almeno quelli. Buzzi Unice meno 3,36%, Ansaldo meno 1,80%, Di Asori meno 1%, Pirelli meno 1 media, 7 meno 0,90 TOZ pure, e lo 0,70 l'Europea della Popolare di Milano e anche Exor. Chi guadagna oggi? Fondiaria SAI più 2,80, ST Microelectronics più 2,3, Saipem più 1,5 come Bulgari, Terna più 0,90, Unicredito più 0,80. I migliori e peggiori in assoluto: investimenti e sviluppo, il peggiore meno 5%, AXA meno 4,36%, ne parleremo di AXA, Crespi più 24,6%, Icon più 14%, Montefibre sulle risparmie non convertibili più 10,6%. Il gruppo Rizzoli Corriere della Sera guadagna il 3,80% dopo la riunione ieri e le decisioni, le dichiarazioni sul patto di sindacato. Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, partiamo, poi un accenno anche ad AXA, ma partiamo con Buzzi Unice, mi sembra che siano assolutamente realizzi, visto che il titolo molto era cresciuto in questi giorni. Fondiaria SAI, più 2,80, si risveglia. Sì, allora Fondiaria SAI ha beneficiato della conferma dell'interesse arrivato ieri da parte di Groupama. Infatti ieri il direttore generale ha confermato appunto l'interesse per il gruppo e anche la volontà di investire nel capitale della controllante prima, fin ciò anche nel caso in cui la Consob dovesse negare alla società francese l'esenzione dall'obbligo di lanciare l'offerta pubblica d'acquisto sul titolo, quindi il mercato comunque scommette sulle prossime mosse, anche perché Groupama ha dichiarato che sarebbe comunque in grado di sostenere finanziariamente un'offerta su Premafin. E questo quindi ha rispinto il titolo. Ancora, la Popolare di Milano, ieri le banche erano tutte forti, oggi ci sta benissimo qualche realizzo, anche se Unicredito guadagna anche oggi lo 0,80, Ubibanca invariata, Intesa San Paolo meno 0,30, invece per quello che riguarda la Popolare di Milano meno 0,70% è la peggiore tra le banche oggi. Sì, allora, secondo gli operatori, appunto, nonostante i rialzi dei giorni scorsi, le quotazioni hanno risentito delle speculazioni sull'ipotesi di un aumento di capitale, speculazioni che tornano in vari momenti e comunque sono voci più volte smentite dalla società, e in particolare l'ultima volta, lo scorso 31 gennaio, in un incontro con gli analisti, i vertici della Popolare di Milano avevano escluso ogni necessità di aumentare il capitale. Alcuni analisti però ci credono, l'opera dicono che l'operazione potrebbe avere senso nel caso però di un fallimento della vendita dell'80% di BPM Vita, un iter che secondo le attese dovrebbe concludersi l'1 marzo con la scelta del partner. Allora, oggi devo dire tutte invariate anche le altre borse europee, meno 0,1 Londra, invariata Parigi, meno 0,2 Francoforte, Milano appunto invariata, e per cui insomma non è una giornata di quelle memorabili. Occupiamoci di due titoli più sottili, Icon, che insomma ha fatto sto botto oggi, più 14,2%, e da un lato, e anche Rizzoli Corriere della Sera dall'altro, che bene è andata, più 3,80. Sì, allora per quanto riguarda Icon vi è una novità, nel senso che ieri l'amministratore delegato e presidente Siclari ha presentato al Consiglio di amministrazione la proposta di revisione del piano industriale, che è stato rivisto alla luce di alcuni eventi negativi, tra cui alcuni problemi con un partner in Egitto. Quindi il CDA ha poi dato mandato all'amministratore delegato di individuare le misure finanziarie necessarie a supportare il piano, compreso quindi l'avvio di una trattativa con le banche. Per quanto riguarda RCS, sono tre sedute che il titolo sale, ha guadagnato oltre l'8%, oggi ha toccato i massimi da maggio 2010, salendo sopra quota 1,3 euro, e le azioni avevano iniziato a salire dopo le dichiarazioni dell'azionista Diego Della Valle, che aveva detto di essere pronto a incrementare moltissimo la quota, e poi avevano appunto continuato a crescere dopo che ieri i partecipanti al patto hanno comunque confermato all'unanimità la centralità del ruolo del consiglio di amministrazione dopo le recenti polemiche. Allora, grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Oggi, ripeto, non ci sono molti spunti di borsa, ma insomma ieri ti abbiamo sentito anche sulle quote rosa, quindi oggi recuperiamo il tempo. Grazie Livia, buon lavoro. E adesso torniamo a parlare di Expo, di turismo, poi arriviamo alla tassa di soggiorno che ha fatto arrabbiare i commercianti, gli albergatori. Però insomma, volete sapere cosa è successo con la Moratti? Nulla. Durante la moderazione questa mattina del convegno di apertura, presente il ministro Brambilla, il commissario europeo Tajani, il governatore della Lombardia Formigoni e anche il sindaco Moratti, il sottoscritto le ha chiesto insistentemente di capire quanti soldi e quando il Comune metterà i soldi per l'Expo, perché in questo momento di 100 milioni 23 della regione ci sono, il Comune ancora non li ha messi, siccome non aveva risposto gliel'ho richiesto e si è molto seccata il sindaco di Milano. Letizia Moratti, sentiamo. No, ci conforta sapere appunto e vedere il suo ottimismo per quello realismo. Che realismo ottimista anche e per quello che riguarda Radio 24, io mi ricordo una diretta bellissima da Parigi, quindi abbiamo esultato con voi. Mi risponde solo però, visto che il quadro sembra essere positivo sulla parte, la quota del Comune di Milano sui 100 milioni che servono per andare avanti. Guardi, e siamo sulla, in un consesso internazionale, quindi io non credo che queste cose interessino ai 130 paesi che sono qua presenti. Ma siccome non voglio sembrare... No, non voglio che sembri che non rispondo, allora io ho in approvazione il bilancio, fino a quando non ho il bilancio approvato, che sarà approvato nei giorni prossimi, come lei sa meglio di me, lavoro in dodicesimi, quindi la quota che il Comune di Milano darà a Expo, come sempre, sarà la quota stabilita che verrà data appena verrà approvato. Perfetto. Il bilancio. Ripeto, non credo che questo interessi a tutti i paesi che sono qua presenti, però non voglio sembrare quella che non risponde, quindi rispondo anche a questo. Ci grazie e un abbraccio, un saluto affettuosissimo a tutti voi, benvenuti a Milano. E se posso, come ultima nota, grazie a un assessore, che è l'assessore Morelli, che vorrei ringraziare, abbiamo degli eventi straordinari in città, quindi per la prima volta Milano ha organizzato un fuori beat come comune. Siate benvenuti, divertitevi e siate felici nella nostra città in questa beat. Grazie, grazie io mi sindaco. Scuso ma devo lasciare. Ringraziamo il sindaco di Milano. E vabbè, poi se n'è andata, insomma, perché doveva andare, sembra molto seccata da questa domanda, ripeto, le domande sui soldi possono seccare, mi rendo conto. Adesso vediamo di ascoltare cosa sono gli ultimi aggiornamenti del nostro GR e poi torniamo invece ad ascoltare che cosa hanno risposto i vari interlocutori sulla tassa di soggiorno e poi l'intervista a Sawiri se le notizie di carattere economico-finanziario che arrivano da Libia ed Egitto. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Vi ricordo che stiamo trasmettendo dalla Borsa Internazionale del Turismo, dagli studi di Radio 24, visto che ce lo chiedete di nuovo, Padiglione 3. Sì, devo dire che la Borsa in realtà ha chiuso meno 0,38%, lo dico perché purtroppo quando siamo in esterna abbiamo un ritardo leggerissimo nei dati, e così rispondo ad alcuni SMS al 349-238-6666 sul fatto che il sindaco di Milano Moratti si sia piccata per la domanda. Ve l'abbiamo fatta sentire, alcuni di voi ritengono che avesse ragione la Moratti, altri invece che si sia piccata per non voler parlare della situazione, insomma, contabile nel Comune di Milano e quindi quando arriveranno questi soldi. L'abbiamo fatta sentire così ognuno si fa la sua idea, questo è, diciamo, no, un modo per fare informazione, non dare torto ragione o non rispondere alle domande. Ognuno, e vedo che molti criticano la mia domanda, va benissimo così. Il sindaco di Milano Moratti invece su un altro tema, e mi riferisco al tema di fondo di questa beat, oltre all'Expo, che chiaramente diventa più passa il tempo, più diventa l'appuntamento fondamentale, ripeto, non solo per la Lombardia ma anche per il paese, per rilanciare il turismo. L'altro tema di fondo riguardava la tassa di soggiorno, lo ricorderete, introdotta dal decreto fiscale per i comuni. La Moratti ha raccolto gli applausi soprattutto gli albergatori quando ha annunciato, come sentiremo, che Milano non la metterà mai la tassa di soggiorno. Siamo felici che questa edizione di BIT abbia 130 paesi che partecipano e abbiamo già confermato più di 11.000 incontri tra operatori. Quindi la BIT di Milano si conferma insieme a Londra la più importante borsa del turismo in Europa. Quest'anno abbiamo anche ospitato i paesi, quindi ci sono 20 paesi che nei luoghi più belli di Milano portano le loro tradizioni, la loro cultura attraverso spettacoli ed eventi. Questo è un modo per avvicinare Milano a tutti i paesi che partecipano alla Bit e valorizzare la nostra città. È una tappa d'avvicinamento importante ad Expo, perché è proprio la prima volta che Milano organizza fuori Bit. A Milano l'anno scorso il turismo è cresciuto del 7%. Noi pensiamo che sia importante continuare a investire sul turismo, quindi per questo motivo non metteremo nessuna tassa sul turismo. Così appunto il sindaco di Milano della tassa sul turismo o tassa di soggiorno. Ha parlato anche il ministro al turismo Brambilla. Sentiamolo al microfono il nostro Paolo Piacenza, ricordando che non l'ha voluta il governo, l'hanno richiesta i sindaci. La tassa di soggiorno è una condizione essenziale che l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha posto per dare il suo assenso al decreto legislativo sul federalismo municipale. Quindi è una condizione che noi ci siamo trovati. Detto questo, è qualcosa di facoltativo. I capoluoghi di provincia, le unioni dei comuni, piuttosto che comuni a vocazione turistica, decideranno se applicarla o meno. Quello che il governo, il Ministero del Turismo, in accordo anche con il Ministro Calderoli, ha voluto comunque tutelare era il fatto che essa venga impiegata per fini turistici, e quindi nel testo è chiaramente precisato che tutti i proventi della tassa di soggiorno, laddove un sindaco deciderà di istituirla, saranno interamente girati in investimenti di tipo turistico e in diretto sostegno proprio alle strutture di tipo ricettivo, nonché alla valorizzazione di quel patrimonio ambientale e culturale che può essere fruito a fini turistici. Così il ministro Brambilla. Secondo invece il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che parlava in questo caso anche a nome di tutti i suoi associati nel settore turistico e alberghiero soprattutto, la tassa è un autogol. La domanda interna è che soffre, i servizi non possono essere, i servizi, il commercio, gli alberghi non possono essere delocalizzati. Allora bisogna fare in modo che questo settore abbia delle buone politiche per consentire al nostro paese di avere una accelerazione ed un irrobustimento della ripresa, della crescita e dello sviluppo. Ed allora, essendo già il nostro settore turistico discriminato attraverso un'aliquota IVA maggiore degli altri paesi a vocazione turistica come la Spagna, come la Francia, come la Germania e come la Grecia, appesantirlo ulteriormente con una tassa di soggiorno ci sembra un autogol, e quindi noi facciamo appello al senso di responsabilità di tutte le istituzioni, perché questa tassa di soggiorno, in un momento in cui attraverso il turismo abbiamo proprio bisogno di aumentare la ripresa, non venga applicata. Ecco, io ricordo che la tassa è facoltativa, però è a discrezione dei comuni, infatti il sindaco di Milano ha deciso di non applicarla. Come sottolinea la nostra base musicale, stiamo cambiando però adesso tema, anche se restiamo in qualche modo dentro la Borsa Internazionale del Turismo, perché si è parlato anche di Nord Africa, è un tema delicatissimo in questo momento, avete sentito l'aggiornamento dalla Libia. E il nostro Paolo Piacenza ha chiesto al direttore marketing della Costa Crociere, Renata Rizzo, che impatto hanno avuto su un settore come quello delle crociere, che tipicamente tocca l'Egitto e tutta l'area mediterranea, le tensioni internazionali, le tensioni nazionali, scusatemi, del Nord Africa. Sicuramente porta disagio, soprattutto la crisi egiziana. Fortunatamente per Costa Crociere la situazione è più semplice che per altri operatori, perché le navi, grazie a Dio, si spostano. Per cui noi abbiamo due navi in Mar Rosso, abbiamo concentrato gli itinerari nella zona della Giordania e di Israele, andando ad offrire comunque delle escursioni estremamente interessanti per i nostri clienti, augurandoci che la crisi finisca e quindi si possa ricominciare alla grande in queste zone. La stagione comunque era quasi finita, per cui Costa ha già annunciato che rimarrà in Mar Rosso tutto l'anno a partire da novembre del 2011. Ci auguriamo che per quel momento la situazione si sia completamente ristabilita. Come sta andando il mercato crocieristico in generale quest'anno e come andranno le prossime stagioni e cosa pensate voi per rinforzarlo? Ma siamo ottimisti, ci sono dei segnali estremamente incoraggianti di una ripresa, direi importante. I segnali di questa prima parte dell'anno sono estremamente positivi per Costa, i numeri lo dicono, c'è una ripresa forte delle prenotazioni, soprattutto per la primavera estate, alla grande il Mediterraneo, che è il nostro grande cavallo di battaglia, ma anche tantissimo interesse verso destinazioni come il Nord Europa, che stanno crescendo a doppia cifra da 5 anni a questa parte. E dopo il traffico resteremo sul tema del Nord Africa, non solo per l'intervista con Sawiris, ma anche per alcune dichiarazioni che ha reso oggi il numero di Eni Paolo Scaroni sugli investimenti di Eni in Libia e anche Tarak Ben Ammar sul tema dello sbarco di immigrati clandestini nelle coste. Mi stavo preoccupando, ma mi ha scritto Fabio, mi chiede, è all'estero, ma voleva sapere se mi ero già dimesso. No Fabio, non ancora, torni presto che poi la riaggiorniamo. Il traffico, 18 e 18 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. E allora, dicevamo delle tensioni sulla parte nordafricana, Libia oggi. Il numero dell'ENI, Paolo Scaroni, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, ha chiarito che l'ENI per ora, viste le tensioni non particolarmente forti, continuerà ad investire in Libia. Molto importante per noi, la Libia è un paese fondamentale, un paese strategico, siamo in Libia anche lì da molti anni e continuiamo a esserci. Sì. E queste tensioni di queste ore? Ma non mi sembrano delle tensioni particolarmente forti. Certo, Bengasi ha una tradizione così di essere una città molto attiva e quindi certe cose possono succedere, ma non mi aspetto niente, devo dire. Ecco, i vostri investimenti sono sicuri al momento in Libia? Sì, sì, continuiamo a investire, la nostra attività prosegue regolarmente. Ma Eni in Tunisia ha fatto tanto, siamo lì dal 1960, pensi che solo di tasse, di royalties, abbiamo versato in Tunisia $1.5 miliardi in questi anni. Continuiamo a lavorare lì, è un paese in cui siamo felici di essere, anche se da un punto di vista petrolifero non ha certo le risorse dei suoi vicini Algeria o Libia. Però abbiamo delle buone speranze, abbiamo fatto delle nuove scoperte, abbiamo molte idee. Pensiamo di investire ancora $500 milioni nei prossimi 3 anni e mi fa piacere dire che questa rivoluzione dolce della Tunisia non ha avuto nessun impatto sulle nostre attività, tutto ha continuato come se niente fosse, anche grazie all'impegno personale dei nostri tunisini che non hanno mai mancato l'appuntamento col lavoro. Ma le seguo con attenzione, ma direi che non sono preoccupato, penso che l'Egitto abbia intrapreso una strada virtuosa, stessa cosa per quanto riguarda l'Algeria. Naturalmente seguiamo gli avvenimenti, ma per il momento la nostra attività non è influenzata. Così appunto, come giudizio complessivo, avete sentito Tunisia, Libia, Egitto, il numero dell'ENI Paolo Scaroni, storica devo dire la presenza del cane a 6 zampe in quell'area. Invece il finanziere tunisino e imprenditore tunisino Tarak Ben Ammar, molto noto in Italia, molto attivo in Italia, è entrato anche in Mediobanca, ha dato un giudizio su quello che sta capitando, su quanto agli sbarchi a Lampedusa, a mio avviso interessante in quanto originale, cioè ha raccontato quanti pochi soldi siano stati dati alla Tunisia devo dire che i soldi non li può dare l'Italia, deve dare l'Europa, il problema è europeo. Sentiamo Drac Benamar, sempre intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta. Ci hanno dato la Commissione Europea 17 milioni di euro. Io ho speso 20 milioni di euro facendo un film giù in 2 mesi. Ci hanno dato la mancia, è quasi un insulto. Infatti il ministro ha detto 17 miliardi di euro, ha capito il nostro ministro. Ecco, ci vuole 10 miliardi di euro come minimo per darci 6 mesi di rimettere in piedi il turismo, l'economia, far lavorare la gente. E l'Europa ce l'ha. Ovviamente con la crisi economica ogni governo dirà io non ho i soldi, ho tagliato i budget. Questa è una volontà politica. O l'Europa e l'America decide. Noi vogliamo sviluppare il Nord Africa in modo che non vengano nelle nostre terre come verranno, allora diventa un investimento per il futuro. L'Europa deve accantonare un piano Marshall. Quando l'Europa ha deciso di ricostruire se stessa dopo la guerra, o il Giappone, l'America dopo la guerra, l'hanno fatta. Un piano Marshall. E ci sono i mezzi. Adesso, senza voler dare nessun giudizio, però è interessante quantomeno da ascoltare l'opinione di Tarak Ben Ammar, che chiede un piano Marshall, diciamo, per i paesi della costa, no, dell'Africa. È chiaro che l'Italia è direttamente interessata, ma il piano Marshall deve essere un piano europeo. Ieri era a Milano Sami Sawiris. La famiglia Sawiris è la famiglia più ricca dell'Egitto, metà della borsa è loro, Naguib è quello famoso per, con Oros, come aver comprato Wind. Sami Sawiris è egiziano copto, quindi cristiano copto, e si occupa invece di investimenti immobiliari, ha presentato un progetto di investimento molto importante ad Andermatt nelle Alpi Svizzere. Gli abbiamo chiesto però chiaramente un giudizio sulle dimissioni di Mubarak e quanto è tranquillo l'Egitto per dal punto di vista anche di un investitore, qual è la sua percezione, essendo l'uomo più ricco, la famiglia più ricca d'Egitto e anche penso quella più ricca d'Africa. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati previdenti, perché quando siamo diventati un gruppo molto grande in Egitto, abbiamo cominciato ad espanderci anche al di fuori. Il gruppo che io guido è presente in 10 paesi. Quello di mio fratello Naguib è ancora più vasto, e così anche per l'altro mio fratello, Nassef. Quindi c'è stato una sorta di effetto amplificatore che ci ha fatto espandere non solo in Egitto, ma anche all'estero. Detto questo, quanto è accaduto in Egitto avrà effetti molto positivi nel lungo termine. Ci sarà meno concorrenza perché coloro che erano sul mercato, grazie a conoscenze anche illegali, spariranno. Rimarranno solo i veri competitori che probabilmente sono solo agli inizi, mentre noi siamo già presenti sul mercato da molto tempo. Dopodiché abbiamo chiesto sempre a Sawiris se il suo giudizio come imprenditore, come miliardario, fosse di un Mubarak che aveva fatto anche da tappo, diciamo, alla libera impresa in Egitto, alla concorrenza in Egitto. No, quello che voglio dire è che c'è sempre stata molta concorrenza. Ciò di cui mi lamento è che alcuni concorrenti hanno avuto dei bonus, dei favori, e che altri invece non li hanno avuti. Per esempio, in una gara indetta dal governo, era come partire con un handicap. E questo è chiaro se si guarda la lista dei contratti stipulati dal gruppo di mio fratello che si occupa di costruzioni. Ebbene, la maggior parte dei contratti in Egitto non sono legati al governo, perché ad aggiudicarseli erano sempre altre persone. Devo però riconoscere al vecchio regime che, anche se molto, molto lentamente, cominciava a permettere al settore privato di prendere spazio. Ed è un bel salto dall'era nazionalistica e sociale, quando cioè si pensava che il governo dovesse provvedere a tutto, ma anche possedere qualsiasi cosa. E poi la valutazione sul futuro, che è la cosa più importante in Egitto. Abbiamo chiesto a Sawiris se, oltre che essere una fonte di opportunità, come lo ricordava, questa transizione, questa rivoluzione pacifica o quasi pacifica in Egitto, non sia anche foriera di alcuni rischi, e se vedeva più rischi che opportunità o viceversa. Sicuramente vedo più opportunità. Le regole del gioco saranno le stesse che avete voi, a cui siete abituati, e le stesse che dobbiamo seguire noi quando facciamo affari fuori dall'Egitto. Quindi, ora che il paese comincia a comportarsi sempre più come una normale economia, le porte si aprono a chiunque, anche a chi non ha conoscenze o canali preferenziali con le autorità locali. E questo penso renderà l'Egitto un posto migliore. Nel brevissimo termine, certo, ci sarà un po' da soffrire, ma, come sa, per tutto c'è un prezzo da pagare. Infine l'ultima domanda sul fronte degli investimenti. La borsa egiziana è rimasta chiusa per un record storico, oltre 10 giorni, e abbiamo chiesto a Sawiris se in questo momento secondo lui l'Egitto può tornare a essere un'opportunità per gli investimenti, se lui stesso investirebbe anche nella borsa egiziana. Ci sarà un grande boom e penso che anche sul fronte economico ci siano state esagerazioni. Le perdite per l'economia e la portata dei disastri che sono stati raccontati sono stati un po' esagerati. Penso che se saremo in grado di avere sostegno dal mondo, cosa che spero, allora ci sarà stabilità e questo sarà positivo per tutti. Guardi per esempio al prezzo del petrolio, salito di quasi il 20%. Ma se l'Egitto viene aiutato a passare dall'anarchia a una transizione soft verso la democrazia, penso che il paese sarà più forte di prima. Credo che il conto finale della rivoluzione non sarà superiore a 10-12 miliardi di dollari. E se all'Egitto arrivasse un aiuto di 12 miliardi di dollari per i prossimi 3 anni, allora il paese diventerebbe un posto migliore e il petrolio costerebbe meno. Così appunto Sami Sawiris, che è il fratello di Naguib Sawiris ed è fondatore di Orascom Development. Era l'ultima notizia che avevamo per questa puntata in diretta dalla BIT qui alla Fiera di Milano. Volete sapere se la Brambilla ci ha risposto? Sì, l'abbiamo fatta sentire nella prima parte del programma. Domani magari ve la faremo riascoltare e magari torneremo anche sul Pio Albergo Trivulzio, su queste case date in affitto a esponenti politici o comunque a vari esponenti, insomma, che obiettivamente non sembravano averne bisogno a prezzi assolutamente di vantaggio. Per ora è veramente tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.